Noi non siamo un'isola. Ogni nostro comportamento, ogni nostra parola si rifrange nella relazione con il prossimo. Per questo motivo, il nostro modo di agire e parlare viene valutato nell'ambito morale. Perciò del continuo siamo o giustificati o condannati e, fuoriuscendo dal senso stretto dei termini, siamo approvati o disapprovati. Nessuno di noi sfugge a questa analisi verbale altrui. Perciò vi sono i tribunali, i palazzi di giustizia, gli organi giudiziari e le assemblee popolari, dove sono formulate le sentenze di condanna e di assoluzione. Per questo motivo noi siamo abituati a ritenere che l'essere giustificati o condannati faccia parte solo di una pronuncia verbale a favore o sfavore dell'imputato. Proprio perché tali sentenze vengono formulate verbalmente secondo la valutazione altrui, la coscienza dell'imperfezione dell'essere umano ci porta a pensare che certe assoluzioni e condanne siano ingiuste. Ma secondo la parola di Dio vi è un altro modo per giustificare e condannare il prossimo, un procedimento che è il più frequente, il più silenzioso, il più sicuro, non soggetto ad errori. Sono sicuro che questo metodo per giustificare e condannare il prossimo sia il meno preferibile per chi è condannato e grandemente accettato chi viene giustificato. Eppure, qualsiasi opinione che abbiamo alla regola alla quale dobbiamo sottostare, alla fine nessuno avrà da lamentarsi, tutti avranno la bocca chiusa. Anzi, tutti approveranno che alla fine dei conti questo metodo per giudicare e condannare il prossimo è e sarà ineccepibile. Insomma, questa regola avrà l'approvazione di tutti, nonostante che, per alcuni, la prima reazione sia di stupore. In effetti, l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Corinto: «Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Com'è possibile che alcuni uomini giudicheranno altri loro simili? Com'è possibile che alcuni figli di Dio giudicheranno addirittura gli angeli? Il giudizio di condanna e di assoluzione non appartiene forse solo a Dio? Chi può giudicare il prossimo se solo Dio conosce i cuori? Com'è possibile che il giudizio di condanna e di assoluzione da parte di esseri umani sia così perfetto da giudicare gli angeli?» Domande più che licite e doverose, alle quali è necessario dare una risposta. L'Eterno Dio aveva scelto come propria eredità tra tutti i popoli la nazione di Israele. Ad esso aveva dato delle leggi e regole perché testimoniasse a tutte le nazioni che il vero ed unico Dio era Lui. Ma Israele non fu fedele alla chiamata, e Gerusalemme, il centro della vita religiosa e simbolo di tutta la nazione, seguì altre divinità. Più volte, mediante i profeti, l'Eterno Dio riprende il suo popolo con delle parabole, e una di queste la troviamo al capitolo 16 nel libro del profeta Ezechiele. In quell'occasione il profeta Ezechiele paragona Gerusalemme ad una moglie adultera e in seguito fa un'analogia tra Gerusalemme e le città di Samaria e Sodomia, definendole sorelle. Se queste malvagie sorelle avevano ricevuto il giudizio per il loro peccato, come poteva sperare di fuggire Gerusalemme, che era ancora più corrotta? In quest'ottica il profeta Ezechiele continua la sua rimostranza: «Com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, tua sorella Sodoma e le sue figlie non hanno fatto ciò che hai fatto tu con le tue figlie. Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma. Lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e in una grande indolenza, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Erano altezzose e commettevano abominazioni davanti a me, perciò le tolsi di mezzo quando vidi ciò. Samaria non ha neppure commesso la metà dei tuoi peccati, tu hai moltiplicato le tue abominazioni più di loro e hai giustificato le tue sorelle con tutte le abominazioni che hai commesso. Tu che hai giudicato le tue sorelle, porta il tuo vituperio, perché con i peccati che hai commesso ti sei resa più abominevole di loro. Esse sono più giuste di te. Su, vergognati e porta il tuo vituperio, perché hai giustificato le tue sorelle.» Ezechiele 16, 48-52. Con questo tono è evidente che il Signore, l'Eterno, non era solo dispiaciuto per la condotta malvagia del suo popolo, ma era anche fortemente adirato, perché con i suoi nefandi peccati, Gerusalemme aveva giustificato le perversioni sessuali, l'orgoglio e la pigrizia di Sodoma. Benché in Samaria l'idolatria fosse giornalmente praticata, i peccati di Gerusalemme erano così ignobili che, a confronto, i peccati delle sue sorelle apparivano quasi come delle azioni giuste. E, in questo modo che si possono giustificare o assolvere le azioni malvagie delle persone, quando il comportamento dei figli di Dio è simile a chi non ha il timor di Dio. Compiere azioni cattive, ignobili, è già di per sé un errore, ma poiché noi viviamo inseriti in una società, il nostro comportamento può indurre altri ad imitarci, perciò, oltre la responsabilità che abbiamo verso Dio, si aggiunge anche quella verso il prossimo. Amare il prossimo come se stessi significa anche agire e parlare in modo da non indurlo a compiere azioni sbagliate come noi non vorremmo essere indotti dal comportamento altrui ad agire scorrettamente. A nulla valgono le nostre valutazioni di condanna verso il prossimo se poi noi facciamo le stesse cose, o peggio, non sono le nostre parole a giustificare chi compie il male, ma le nostre azioni. Vi sono persone che sentono la propria coscienza a posto perché riprendono chi compie azioni ingiuste, ma di fatto non si comportano diversamente. Rivolgendosi ai giudei, l'apostolo Paolo li apostrofa dicendo: «Come mai tu che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti glori nella legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Infatti, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili». Romani 2, 21-24. L'Apostolo ha fatto un'ulteriore riflessione. Chi condanna gli altri e poi compie le stesse cose, non solo giustifica il male, ma induce le persone a infierire contro Dio, a bestemmiarlo. Queste riflessioni mostrano tutta la gravità del peccato e la spaventevole responsabilità di chi si dichiara figlio di Dio. Consideriamo l'aspetto della condanna. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Ebrei 11:7. Al tempo in cui l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo, Genesi 6:5, decise di mandare il diluvio sulla terra. Disse a Noè di prepararsi un'arca perché, dopo 120 anni, avrebbe mandato sulla terra tanta acqua da coprirla tutta. Dalla scrittura comprendiamo che in questo periodo di tempo Noè annunciò agli uomini ciò che stava per succedere, ma essi si beffarono di lui perché, tra l'altro, non era mai scesa della pioggia dal cielo. Ma, dopo 120 anni, piovve per 40 giorni e 40 notti, la terra fu sommersa completamente, e ogni essere che aveva alito di vita morì. Come abbiamo letto, in questo episodio, viene detto che Noè si salvò per fede e condannò gli altri abitanti della terra. Si potrebbe pensare che Noè predicasse delle parole di condanna nei confronti dei suoi contemporanei, ma sebbene di condanna si parli, essa non è stata pronunciata con delle parole. Noè ebbe fede, credette a ciò che l'Eterno gli aveva detto, lo annunciò agli altri, e, per questo suo atteggiamento, egli fu strumento di condanna per chi non aveva posto fede in Cristo. Se Noè ha potuto credere in ciò che gli era stato promesso, significa che anche altri potevano credere, perciò la fede di Noè ha reso colpevole chi non ha creduto. Non sono state le sue parole a condannare il mondo, ma il suo comportamento. L'episodio di Noè non è stato l'unico. Gesù ha passato tutta la sua vita a parlare di suo padre e annunciare l'Evangelo, ma molti non credettero. Non solo. Le persone religiose, nonostante parlasse come non ha mai parlato nessuno, chiedevano continuamente delle prove della sua divinità. In un ennesimo confronto, leggiamo il seguente dibattito. Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono, dicendo: «Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno». Ma egli, rispondendo, disse loro: «Questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. I Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui ci è uno più grande di Giona. La regina del mezzogiorno risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui ci è uno più grande di Salomone». Matteo 12, 38-41. L'incredulità dei religiosi ebrei avevano scocciato Gesù, il quale prende l'occasione per dire a loro che persone pagane, da loro disprezzate, cioè i Niniviti e la regina di Sheba, li avrebbero condannati. Alla luce di quello che abbiamo letto nella scrittura, è evidente che i pagani non pronunceranno una condanna verbale verso dei giudei, ma sarà la loro fede che condannerà l'incredulità del popolo che Dio si è scelto. Perché nonostante questi pagani avessero avuto dei testimoni umani e imperfetti, credettero mentre loro, che stavano vedendo il Figlio di Dio, non credevano. Queste riflessioni sono da prendere con molta serietà, soprattutto per chi confessa la propria fede in Cristo. Non consideriamo la santità solo un dovere e il peccato solo un'offesa a Dio. Ciò che facciamo può giustificare o condannare il prossimo. E in quest'ottica la responsabilità di una vita pura, pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia, Giacomo 3,17, è enormemente aumentata, ma è altresì premiata. Quando Paolo disse a dei credenti di Corinto che avrebbero giudicato il mondo malvagio e gli angeli disubbidienti, li poneva in una situazione molto ambiziosa, ma non tutti avrebbero avuto questo onore. Essere presi come esempio di virtù, come pietre di paragone, è una soddisfazione divina estesa a tutti i figli di Dio, ma riservata a pochi. Non importa quanti sono, l'importante è che tu ed io siamo fra quelli. Febbraio 2004. Ellero.